Voglio, prima di tutto, voglio dare l'augurio a tutte le mamme per questo giorno speciale. Un abbraccio forte. Abbraccio a mia moglie, che la posso abbracciare. No? Grazie. Io ho mia madre che ha 86 anni e sta in Argentina, forse ancora è dormendo perché lì è un altro orario, no? Però è una donna speciale, ma anche questa donna che ho a fianco è una mamma, una donna molto, molto speciale. E io vorrei che preghiamo per Emanuele che abbiamo visto, però anche preghiamo per Marta, per Giulia, per questi ragazzi. Ci sono altri ragazzi di altre chiese che stanno servendo, sono 11 in totale, sono due coppie, una di Benevento, un'altra di Como, che sono un esempio per noi. Io vorrei approfittare adesso che ho fatto venire a Mili per pregare, che se tu puoi pregare per questi ragazzi, possiamo pregare tutti insieme. Sì, Signore, in questa mattina ti ringraziamo per quello che tu fai per noi, per quello che, come tu ti sei donato, non hai risparmiato il tuo proprio figlio, Signore, per amore di noi. E per quello, Signore, noi seguiamo il tuo esempio, per quello che andiamo lì dove tu ci chiedi di andare. E per quello che oggi vogliamo benedire questi ragazzi che prendono queste scelte, di lasciarlo tutto per seguire te, per seguire le tue sfide, il tuo piano per le loro vite. Signore, benediciamo Marta, benediciamo Giulia, benediciamo Emanuele, che tu possa, Signore, essere le loro forze ogni giorno, che ogni giorno possa con il tuo Spirito Santo guidare, Signore, che il loro orecchio possa essere attento a quello che tu stai facendo, perché tu stai già lavorando in quei posti e hai invitato loro a entrare nelle tue lavori, Signore, e per quello li benediciamo. Noi siamo la Chiesa che abbiamo inviato loro e vogliamo essere un sostegno per loro, in preghiera, in ogni tipo di sostegno, Signore, anche interessandoci quello che loro vivono, quello che ogni giorno devono affrontare, Signore, e pregare per loro. Signore, li benediciamo nel nome di Cristo Gesù. E ti ringraziamo per l'onore e il privilegio che ci dai di poter essere una chiesa che invia, poter essere un team insieme a loro, Signore. Loro non sono soltanto andati perché hanno sentito questa tua chiamata e basta. Siamo un team, noi li abbiamo inviato, Signore. Tu non fai nulla senza la tua chiesa. E per quello, Padre, vogliamo essere attenti e sostenerli in ogni tempo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie Mili. Come questa domenica, diciamo, tutto questo mese dedicato alla missione, io voglio, ho scelto un verso della Bibbia. Per parlare della missione dobbiamo parlare di tutta la Bibbia, tutto l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, però ho scelto un verso speciale, è Matteo 28, del 18 al 20, che è un verso che ci parla molto, a me mi parla molto, perché è quando Gesù, dopo di essere risorto, ha apparso ai suoi discepoli e le dà questo comandamento, che voi, tutti voi lo conoscete bene, lo conosciamo bene questo verso della Bibbia, però io voglio usarlo come base a lo che andiamo a condividere oggi. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, questo è per me meraviglioso, no? Per noi, per ognuno di noi, per ognuno dei nostri ragazzi che sono sul campo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Ma questo è Gesù che lo ha detto, no? E io voglio usare questo verso per sottolineare una cosa. Qual è la nostra missione? Qual è la missione che noi abbiamo per portare avanti? Parliamo della missione, la parola missione non sta nella Bibbia, noi la usiamo per cercare di capire che abbiamo una missione, ma è questo che stiamo leggendo qui. Andate dunque e fate miei discepoli a tutti i popoli. Un'altra versione dice a tutte le nazioni, o altri dicono a tutti i gruppi etnici. è tutto buono. E questa è la missione che ognuno abbiamo. E questa missione inizia dove? Inizia qui in Italia e fino all'estremità della terra, a tutti i popoli. E Atti 1:8 dice che voi riceverete la potenza dello Spirito Santo e mi sarete testimoni, prima in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Questa è la missione, questa è la chiamata, tutti siamo chiamati a questo. Non possiamo dire, no, va bene, grazie a Dio, non ho la chiamata per la missione. No, non possiamo dire così, tutti siamo chiamati. A che cosa? Qual è la missione? È di fare discepoli. Fare discepoli nel nostro quartiere, nella nostra città e fino all'estremità della terra. Per quello io credo che tutti siamo chiamati. Tutti abbiamo, Dio ha disegnato un piano per ognuno di noi. Dio ha un piano per la tua vita, Dio ha un piano per questi ragazzi che sono partiti, Dio ha un piano per ognuno, forse qui in Italia o forse in un'altra parte, questo non lo sappiamo, però Dio ha disegnato un piano per la tua vita. E noi abbiamo l'anniversario oggi, non del matrimonio, è l'anniversario di quando abbiamo deciso con Mili di dare un sì, un nostro sì al Signore, 30 anni fa, era... Tutto è iniziato in febbraio del 1991, 30 anni fa, quando eravamo fidanzati. Noi sempre pregavamo, Signore, forse tu hai un posto dove tu vuoi che noi andiamo, va bene. Era quella preghiera che facevamo, ma Dio l'ha preso così sul serio, no? E in quel febbraio, in quel mese, ho fatto un viaggio di lì, è uscito l'invito di andare a servire al Signore in una regione fra l'Argentina, Bolivia e Paraguay, al nord dell'Argentina, e che si chiama la pianura Chaqueña. E quella è una regione molto speciale perché è abitata per tutti i popoli aborigene in quella regione. E noi abbiamo dovuto dare una risposta a quella sfida, a quell'invito, e abbiamo deciso, abbiamo dato il nostro sì, eravamo un po' inconscienti forse, però abbiamo dato il nostro sì al Signore. E dopo, questo era febbraio del 91, nel mese di aprile, il 13 di aprile, abbiamo fatto il nostro matrimonio, ci siamo sposati, abbiamo dato il nostro sì a noi, fra noi, però anche il sì a Dio di essere parte della nostra vita, della nostra famiglia, di questo che stava iniziando lì. E il 9 di maggio, un giorno come oggi, siamo andati, un 8 di maggio siamo partiti dalla nostra città, al 9 di maggio siamo arrivati a quella parte dove sono stati questi 30 anni che abbiamo vissuto insieme, dove sono nati i nostri figli, è stata tutta una bella avventura. E di questa chiesa sono partiti tre ragazzi, no? Lo sappiamo bene, Marta la prima, Giulia e Emanuele. E questi ragazzi sono stati mandati dalla Chiesa. Questo invio di questi ragazzi non è stato una cosa di un giorno all'altro, va bene, andiamo, e quando loro sono arrivati al posto finisce già tutto. Non è così, è tutto un processo che ha avuto forse un inizio, non lo so, per me l'inizio ha avuto 2000 anni fa, come abbiamo letto. E questo processo ancora non ha una fine, neanche per la vita di questi ragazzi. Io vi voglio illustrare, forse con un piccolo esempio, come vive una persona. Abbiamo detto che molti sono chiamati a fare discepoli qui in Italia, altri sono chiamati ad andare fuori a altri popoli che mai conosceranno il Signore se non va nessuno. Per quello Dio chiama. La vita di una persona che vive nella propria cultura la possiamo illustrare con una linea retta così, forse ha qualcuna piccola variazione, può succedere qualcosa grave e può avere variazione, però è una linea abbastanza retta. Perché? Perché vive nella propria cultura, perché sa parlare la lingua, è nata in questa cultura, la persona, uno è nato e cresciuto nella cultura, uno sa i codici della cultura dove noi ci muoviamo, e per quello possiamo dire che quella linea è abbastanza retta. Adesso, come è la linea di una persona che ha una chiamata, che ha nel suo cuore di andare a servire a Dio o un'altra nazione? Questa persona forse vive una linea retta fino a che si trova con una sfida. Si sente che Dio le sta sfidando. Dio le sta mettendo in un carico, non solo per l'Italia, le sta mettendo un carico per andare a un'altra nazione, a un altro popolo. Non lo sa, ascolta una storia di che sono nazioni ancora, sono popoli ancora che mai hanno sentito parlare di Gesù, e quello colpisce forte al cuore e sente che Dio le sta sfidando di andare a un'altra parte. E quello quando già la persona deve dire sì al Signore, deve dare un loro sì al Signore, e lì si iniziano a scattare tante cose, tante emozioni. E quella persona, la linea già non è una linea retta, inizia ad essere una linea così. Perché? Perché le emozioni si mettono sotto sopra. È logico, devo pensare, devo lasciare la mia casa, devo lasciare la famiglia, devo lasciare questo posto che so benissimo come muovermi per andare in un posto sconosciuto, devo imparare un'altra lingua. Sarà che mi sposerò, se vado in un'altra parte, troverò il marito, la moglie. Se è una famiglia anche, inizia a pensare, ma come facciamo con i figli? Come facciamo con la scuola, con l'educazione? Tutto questo mette l'emozione così. Per quello già non è una linea retta, sino inizia ad essere una linea molto, molto variabile. Le emozioni sono molto, molto variabili. Devo andare veloce. Se lo chiama la chiamata, questa fase se la chiama, dopo arriva la partenza, si sistemano le cose, tutto si sistema e viene il giorno della partenza, anche lì il momento emotivo è molto molto forte, dopo sta il viaggio, la partenza, dopo quando arriva al posto inizia un'altra fase, perché inizia a lasciare tutto dietro, tutto lo che ha vissuto, tutte quelle emozioni, l'addio con la famiglia, con la chiesa, inizia una fase nuova perché è nuovo nel posto, sono tante emozioni nuove, la persona che arriva è l'estraniero, tutti lo vogliono conoscere, è il team, si trova con un team dove va a lavorare, tutti vogliono stare con lui, inizia una fase abbastanza bella che si chiama la luna di miele. È la fase che si conosce la missione come la luna di miele. E quando uno arriva vede tutto bello. Ah, che bella che sono le persone, sono tutti buoni, sono tutti, nessuno è cattivo. Uno lo vede così, no? Dopo si rende conto che non era così tanto. Però all'inizio uno vede tutto bello, tutti i sapori sono belli, tutti i profumi sono belli, anche se sono brutti, però uno lo vede buoni. E perché uno ha fatto tanto sforzo, ha fatto tanta fatica per arrivare a questo. E non lo so, Dio anche ci fa vedere così, no? E quella fase si la chiama la luna di miele, ma come tutta luna di miele non dura molto tempo e dopo si inizia a rendere conto di che non sa parlare, non sa fare la cosa più semplice, non la sa fare, non sa camminare in quella cultura. Lì inizia un'altra fase che si la chiama lo shock culturale, che questo è molto normale, e una frase che ci fa entrare in crisi con la cultura, con la lingua, non so, devo comprare un chilo di pomodoro, non so come si chiede, non so, cosa semplice, devo pagare la bolletta, come faccio? Se fa tutto un mondo, perché non sa come muoversi. E inizia a entrare in crisi. Quella fase si chiama lo shock culturale, ma non dura molto, dura mesi, può durare anche un anno, però dopo uno inizia a negoziare con la cultura, uno inizia a parlare, ha fatto amicizia, e quello inizia un'altra fase, già la fase di adattamento, che è una fase molto bella e anche che è sempre tutta un'avventura, ma sempre le emozioni sono così. E dopo inizia una fase che già inizia a parlare, inizia a comunicare, ha fatto gli amici. E se riesci a parlare con qualcuno del Signore, quello è una spinta fortissima che ti dà per continuare a imparare la lingua. E quello è una fase molto bella. Dopo di quella fase di shock culturale, di adattamento, viene una fase che dopo 2-3 anni l'operaio deve tornare a casa, deve tornare per visitare la chiesa, per visitare la famiglia, per trovare amici. E lì è una fase molto particolare, molto difficile anche, perché si produce anche un shock culturale all'inversa. Quando rientra si trova con che la famiglia è cambiata, e non sono gli stessi che ho lasciato 3 anni fa, la chiesa è cambiata, gli amici della chiesa sono tutti un po' cambiati, che cosa è successo? Perché sono passati 3 anni, in 3 anni cambiamo, e quello le fa sentire, però non si rende conto che anche lui o lei 3 anni ha cambiato, e però ha cambiato in una direzione diversa, in una velocità diversa, non so come spiegarlo, però ha cambiato. E così si produce una sensazione un po' difficile, perché pensava che tornava a casa, però si rende conto che quella già non è casa sua, la casa è l'altra parte. E questo mette l'emozione un po' sensibile. E questo è lo che voglio dire, quella linea retta che ha iniziato a essere così, mai tornerà a essere una linea retta, non tornerà. Sarà sempre così. E per quello quando dobbiamo essere attenti, quando tornano a casa i nostri operai, dobbiamo essere attenti a capire che non è facile per loro, non è semplice. E che le emozioni sono sempre molto, molto, molto forti, va bene. E in tutto questo sta un ingrediente molto forte che è la fede. Io per andare veloce, vi nomino versetti della fede che ci fanno riflettere un po' su questo. La fede, dice Ebrei capitolo 11, il verso 1, dice che «Or la fede è la certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Questa è la fede. Perché parlo della fede? Perché in tutto questo processo sta la fede. Senza la fede non facciamo niente, in tutto questo processo sta la fede. La fede è la certezza di quello che aspettiamo. Siamo certi, se Dio lo ha detto, siamo certi che è così. Se Dio ci ha inviato, se Gesù ci ha detto andate, io sarò con voi, sono certo che è così, che sarà con noi. Lui è con noi ogni giorno della nostra vita. Sia che siamo chiamati a rimanere, sia che siamo chiamati a andare, ma Lui è con noi. E Lui ci manda, e Lui ci invia. E questo è per fede. Noi lo prendiamo tutto questo per fede. Romani 10, 17 dice, così la fede viene per ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene per la parola di Cristo. La parola ha potenza, la parola di Dio ha una potenza. Quando noi la ascoltiamo, noi la riceviamo nel nostro cuore, la crediamo e la mettiamo in pratica, è quello lo che fa la differenza. Per quello, io... Al leggere questi versi, anche Ebrei 11,6 dice che ora senza fede è impossibile piacerli. Senza fede non possiamo piacerli a Dio. E questo mi fa capire che cosa è la fede. Che cosa è la fede? Per ogni cosa abbiamo bisogno di fede. La fede non è una cosa ferma. La fede è azione. La fede è movimento. La nostra fede, sì, no, io posso soltanto credere, però quello non è fede. La fede è quando lo che noi crediamo lo mettiamo in azione, lo mettiamo in movimento. Per quello la mia definizione di fede è che la fede è una decisione. Ho deciso di credere, ho deciso di credere a Dio. Questi ragazzi hanno deciso di credere a Dio e di mettere la vita nella mano di Dio e per quello sono partiti. E se ha bisogno di fede, se ha bisogno di fede per inviare, noi come Chiesa abbiamo mandato, se ha bisogno di fede per inviare. No, non sono mandati, non sono inviati per la Chiesa perché c'è soldi, no. Niente di questo. Sono perché c'è fede. Perché lo che ci spinge è la fede a fare. Questi ragazzi non sono andati perché tutto è bello, perché vogliono fare turismo. Una volta ho sentito questo, mi ha fatto arrabbiare. Vai tu a fare turismo lì, ho voluto dire a quella persona. Lascia tutto tu per andare a fare turismo, a mettere in quel gioco dell'emozione. Non sono partiti per questo. Sono partiti perché hanno fede, perché hanno avuto fede, hanno creduto lo che Dio, hanno creduto alla sfida che Dio ha messo avanti. E questo, a questa sfida hanno detto di sì. Questo voglio parlare del vostro sì. Dio mette sfida avanti di noi. E a ogni sfida Dio vuole il nostro sì. E questo sì che noi le diamo a Dio è quello lo che le piace a Dio. Per quello dice, senza fede non possiamo piacere a Dio. Perché a Dio le piace la nostra fede. A Dio le piace il nostro sì. Quando avanti a una sfida che mette avanti a noi, noi le diciamo sì, Signore, te credo. Te credo con tutto il mio cuore e sono disposto a dare la mia vita, Signore, per questo che tu stai mettendo avanti a me. Questo va per ognuno di noi, non solo per i ragazzi che sono sul campo. Se ha bisogno di fede per mandare, se ha bisogno di fede per andare, se ha bisogno di fede per pregare, se ha bisogno di fede, però noi preghiamo per questi ragazzi, noi dobbiamo pregare. Sentite, voi pensate che è facile lo che loro hanno fatto? Non le possiamo lasciare da soli. Non le possiamo lasciare da soli. Noi dobbiamo andare con loro. Come possiamo fare? Con la nostra preghiera. Non possiamo dimenticare. Dobbiamo pregare per i nostri ragazzi. Sapete, ogni mese, il secondo martedì si fa l'incontro di preghiera in via Santa Lucia. Io invito a tutti voi a venire. Non so, adesso siamo in zona gialla, possiamo essere di più. venite, pregate, o se no potete venire, cercate i punti di preghiera per i nostri ragazzi, perché se ha bisogno di fede, perché preghiamo? Perché abbiamo fede che la nostra preghiera sostiene questi ragazzi che stanno sul campo, abbiamo fede, abbiamo bisogno di fede per dare, per donare, anche per investire. Io, quando noi doniamo, diamo del nostro soldi per sostenere, che cosa stiamo facendo? Lo facciamo perché abbiamo soldi? Non serve, se per questo non lo facciamo, lo facciamo perché abbiamo fede. E perché abbiamo fede, noi crediamo che stiamo investendo nel regno di Dio, stiamo investendo perché altre persone possono ascoltare la parola di Dio, perché altre persone possono seguire Gesù. E questo è molto molto importante, che tutto quello che facciamo lo facciamo perché abbiamo fede. Se non avessimo fede, se non avessimo dato il primo sì al Signore, un sì ti porta un altro sì, un sì ti porta un altro sì. E questa è la vita che Dio ha per noi, questa è la vita che Dio ha per te. Non è una vita noiosa, non è la vita cristiana una vita noiosa, è una vita piena di sfide. E a ogni sfida Dio le piace quando noi le diamo il nostro sì. E questo è lo che Dio chiede del nostro cuore. E quello io credo che è la fede. Quando noi siamo pronti per dirle sì, Signore, sì, Signore, sì, Signore, a ogni sfida che Lui ci dà. E questo è lo che chiede Dio di ognuno di noi. Oggi pensavo, quando lo guardavo al pastore Pinuccio, pensavo la decisione, no? La decisione, perché la fede è una decisione. La decisione di fede del pastore Pinucci e Sofia, 40 anni fa, non so quanto, che hanno deciso di fondare una chiesa qui a Modugno. È stata una sfida. E loro che cosa hanno detto? Hanno detto sì. E noi siamo frutto di quella sfida, di quella decisione, di quel sì dato al Signore. E questo è bellissimo, no? Va bene, vado veloce. E vi voglio raccontare una storia. Prima di questo ti voglio dire una cosa. L'nemico cercherà di rubare il piano che Dio ha per te. Il nemico farà di tutto per rovinare la nostra vita. Ha due piani per farlo. Il piano A è farci tornare indietro. Quello l'nemico vuole, che noi torniamo indietro, che torniamo alla vecchia vita, che lasciamo tutto, che ci arrabbiamo e lasciamo tutto. Quello è la cosa che è il piano A dell'nemico. Se non riesce con il piano A, ha un piano B. Sapete qual è il piano B? Fermarci, che siamo fermi. Va bene, se non torni indietro, almeno sei zitto, no, sei fermo, non fai niente. E quello è il piano dell'nemico. Se non ti può far tornare indietro, almeno sei contenta con che tu non fai niente, che non le dai il tuo sì al Signore, che non vive il piano che Dio ha per la tua vita. E questa è la strategia dell'nemico, e per questo l'nemico è molto furbo, e sa come rubare la benedizione che Dio ha per te e che Dio ha per me. E noi non possiamo permettere questo. Amen? Amen. Possiamo dubitare di noi, ma non possiamo dubitare di Dio, non possiamo dubitare la capacità di Dio di prenderci della mano e di portarci a fare la sua volontà. Non possiamo dubitare, io posso dubitare della mia capacità, ma non della capacità di Dio. Vi racconto una storia. Quando noi stavamo in quella pianura chaquegna che abbiamo parlato lì al nord dell'Argentina, ogni tanto facevamo una conferenza, sceglievamo un villaggio, era una conferenza per tutti i leader, e tutti i leader di più di 30 chiese venivano a quella conferenza, no? Eravamo molti, venivano anche altre persone che non erano leader e potevano partecipare, eravamo una folla, qualcuno faceva più di 300 chilometri per arrivare. Una cosa che mi ha rimasto molto di quell'esperienza era che sempre che facevamo questa conferenza ci piaceva cantare una canzone. È una canzone molto semplice e che sta in ogni dialetto, in ogni lingua di questi gruppi la sapevano. È una canzone molto semplice e la cantavamo tutti insieme. Era un momento di gloria incredibile. Prima la cantavamo in spagnolo, che è la lingua che ci univa tutti un po', e cantavamo questa canzone. In spagnolo dice così: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. In italiano è un po' diverso, no? Ho deciso seguir a Cristo, ho deciso seguir a Cristo, indietro no, mai tornerò. Molto semplice. E la cantavamo prima in spagnolo. Dopo c'era un gruppo che era il maggioritario, che erano huichí, si chiamava Mataco, e iniziavano loro a cantare, lo cantavano con, con una gioia, e ho deciso di seguire Cristo, ho deciso, e la cantavano nella loro lingua. E dopo era il gruppo Chorote, nella lingua Chorote iniziavano a cantare anche loro questa canzone, stavamo lì per molto tempo. Dopo era il gruppo Tova, i Tova iniziavano a cantare questa canzone nella loro lingua, e dopo c'era il Guarani iniziavano a cantare la lingua Guarani, bellissimo, era una cosa, non lo posso spiegare, ma si sentiva così forte la presenza di Dio in quel momento. Dopo c'era qualcuno missionario svedese, si alzava e lo cantava anche lui da solo, però lo cantava nella sua lingua svedese. Era un momento speciale. E questa canzone è particolare, perché questa canzone è stata tradotta in tutte le lingue. Voi la potete trovare in tutte le lingue. Chi ha più di 20, 30 anni di credente, in quella epoca la cantavamo molto, molto spesso, forse oggi non si canta tanto, però non lo so, quanti conoscono questa canzone? Oh, molti. Perché questa canzone è diventata così famosa? Perché è molto semplice, però sapete che ha una storia dietro di questa canzone. Forse chi ha più anni di credente la sa, forse qualcuno non la sa. Io vi la racconto. È una storia molto particolare che ha a vedere con una famiglia. Si dice che nella India, nella regione di Assam, una regione della India dove oggi sono tanti cristiani, prima erano tutti i villaggi erano induisti. Un missionario gallese, si crede, che è andato lì a predicare l'Evangelo. E quando questo missionario è andato a quella regione, si è convertito una famiglia. In un piccolo villaggio si è convertito una famiglia. L'uomo, la moglie e due figli. Questo missionario ha passato, è andato già via, e questa famiglia è rimasta l'unica famiglia credente in quel villaggio. Questa famiglia ha iniziato a predicare l'Evangelo. Gli altri famiglie si hanno iniziato a avvicinare al Signore. E questo, quando altre famiglie stavano venendo al Signore, questo ha fatto arrabbiare al capo del villaggio, che il capo era il responsabile del villaggio. E si è arrabbiato tanto che un giorno ha chiamato a tutto il villaggio, gli ha chiamato a questa famiglia, l'ha messo nella piazza centrale, gli ha chiamato tutto il villaggio. E lì, quando stava, ha detto al capo di famiglia, le ha detto: senti, se tu devi negare la tua fede in Gesù, tu devi tornare all'induismo, tu devi negare, se non lo fai, noi in questo giorno ti uccidiamo. E questo uomo non era disposto a lasciare a Gesù. Questo uomo per niente era disposto a lasciare la sua fede, era così deciso a non negare a Gesù. E il capo del villaggio si è arrabbiato tanto per questo, gli ha detto: senti, se tu fai così, tu non nieghi la tua fede, non rifiuti la tua fede, noi adesso uccideremo i tuoi due figli. E questo uomo non sapeva che cosa dire, non poteva rispondere niente. E lì si è ricordato di questa canzone che lui stesso aveva fatto questa canzone e che la cantava ogni giorno, e gli è venuto di cantare questa canzone, e lui ha iniziato a cantare: ho deciso di seguire a Cristo, ho deciso di seguire a Cristo, indietro no, mai tornerò. E così questo uomo ha risposto con questa canzone, e stava cantando, e tutti ascoltavano a questo uomo cantare: ho deciso di seguire a Cristo, indietro no, non tornerò. Il capo del villaggio era così arrabbiato che ha dato l'ordine e hanno ucciso i due figli, avanti lui e avanti la moglie. Il capo del villaggio le ha detto: senti, ti do un'altra opportunità di salvare la vita di tua moglie, devi rifiutare la tua fede in Gesù. E questo uomo non ha risposto, continuava a cantare: ho deciso di seguire a Cristo, ho deciso di seguire a Cristo, e indietro no. Il capo del villaggio si era arrabbiato e ha dato l'ordine, e gli hanno ucciso la moglie avanti a lui. E questo uomo continuava a cantare: ho deciso di seguire a Cristo, ho deciso di seguire a Cristo, indietro non tornerò. Il capo del villaggio ha dato l'ordine e lo hanno ucciso anche a lui. Questa è stata un'esperienza molto forte per tutti. Tutti sono tornati a casa. Il capo del villaggio è tornato a casa, e quella notte non poteva dormire. Quella notte non riusciva a dormire. Che cosa è così potente? Che cosa è così importante che questa famiglia ha scelto di morire per non negare la loro fede? Che cosa può essere così importante in quel pensiero? non lasciava tranquillo a questo uomo. E quasi giorno tra giorno, per molto tempo lui era attormentato questo uomo per vedere questa famiglia che ha deciso di dare la sua vita per Gesù, per una persona, per un nome. Non l'ho voluto rifiutare. È arrivato un giorno che il capo di questo villaggio ha chiamato tutto il villaggio, lo ha chiamato di nuovo, l'ha riunito tutto nello stesso luogo dove questa famiglia è stata uccisa. Il capo del villaggio ha parlato a tutti e ha detto: sentite, oggi io e la mia famiglia abbiamo deciso di seguire Gesù. La testimonianza di questa famiglia ci ha parlato così tanto forte che anche noi abbiamo scelto di seguire Gesù. E questo uomo si è tornato alla sua casa. E questo ha fatto un impatto in tutto il villaggio. Che tutta la famiglia, quel giorno, tutte le famiglie del villaggio hanno deciso lo stesso, hanno deciso seguire a Gesù. Ma non è stato soltanto quel villaggio, altri villaggi hanno fatto lo stesso, hanno fatto lo stesso, e la parola di Dio si è sparso fino ad oggi in quella regione, per quello sono tanti cristiani in quella regione. Guardate voi, per la scelta, per il sì, per la fede di una famiglia, per la morte di una famiglia, sono tanti che hanno trovato la vita, che hanno trovato la vita in Gesù. Dopo sono passati anni, c'è stato un altro uomo, un missionario indiano, che è arrivato a quel villaggio e ha trovato a tanti cristiani in quella regione. E lui voleva capire che cosa aveva successo. Gli hanno raccontato la storia, gli hanno raccontato la canzone, gli hanno detto la canzone che cantava questo villaggio. E questo uomo ha portato questa canzone per tutta la India e anche insieme a questa storia. Ma non solo nella India, questa canzone e questa storia è arrivata in tutto il mondo. E per quello è una delle canzoni, uno dei canzone classica del mondo credente, del mondo evangelico. Ma è una canzone così semplice, ma con una storia così forte indietro. La scelta di questa famiglia, il sì di questa famiglia ha cambiato tante famiglie, ha cambiato tante vite. E la potete cercare, questa storia è molto conosciuta, Porte Aperte la racconta anche, io l'ho sentito da quando mi sono convertito. E la decisione che noi prendiamo sono molto importanti. La decisione che noi prendiamo avranno un'influenza su nazione, posso avere un'influenza sulle nazioni. La decisione che tu prendi avrà un'influenza sulle tante persone, su tante vite. Per quello è importante la fede, per quello è così importante il nostro sì. Il sì che noi le diamo al Signore è così importante che avrà un'influenza sulle tante persone, sulle tante persone. Ho deciso di seguire a Cristo, ho deciso di seguire a Cristo, indietro non tornerò. Io, se dovessi fare una preghiera in questa mattina, vi chiedo di pensare questo: se dobbiamo fare una preghiera, la preghiera più importante, che cosa chiederesti al Signore? Possiamo riflettere un po' questo. Se dobbiamo fare una preghiera, che cosa le chiederai al Signore? In questa mattina il Signore ti dice: fammi una preghiera importante. Che cosa le chiederesti? Io ti dico una cosa: la tua fede per Dio è preziosa. Il tuo sì per Dio è prezioso. È prezioso. Parliamo di questa famiglia che ci parliamo di Gesù. Il suo sì ci ha cambiato. Preghiamo. Possiamo alzarci in piedi. Io so che cosa io le rispondo al Signore. Io le chiedo due cose al Signore, che non la chiedo solo oggi, la chiedo quasi ogni giorno. Voglio rimanere fedele al Signore fino al mio ultimo giorno, fino al mio ultimo sospiro. vuole rimanere fedele al Signore fino all'ultimo sospiro. E la seconda cosa che le chiedo, di avere la forza per non lasciarmi rubare dall'enemico nessuna della benedizione che Dio ha per la mia vita e per la mia famiglia, di non lasciarmi intrappolare per l'enemico, di non lasciarmi rubare la gioia, la santità, di non lasciarmi rubare, di non lasciarmi mettere paura. Voglio avere la forza per rifiutare ogni bugia dell'enemico, ogni lavoro che l'enemico fa per intrappolarci, perché non possiamo, per evitare che noi possiamo vivere tutto lo che Dio ha disegnato per noi, per ognuno di noi. Preghiamo, fai la tua preghiera, Signore. Fai la tua preghiera, Signore. E io ti consiglio, fai la cosa migliore che possiamo fare nella vita. Dale il tuo sì al Signore. Dare il nostro sì al Signore è la cosa migliore. Signore, io credo in Ti. Ma non credo soltanto, credo che Tu sei con me ogni giorno della mia vita. E che la mia vita è nelle Tue mani, sia qui in Italia, sia nel posto più pericoloso. Ma io sarò nel posto più sicuro, che sono le Tue mani, il posto più sicuro. Posso avere, io ho deciso di avere questa fiducia, Signore, in Te. Ho deciso di seguirti quando tutto va bene e quando tutto va male. Ho deciso anche la sofferenza di rimanere fedele, anche se sono in malattia, rimanere fedele, Signore. Non solo quando tutto va bene, anche quando tutto va male. Ho deciso, Signore, di vivere con Te tutti i giorni della mia vita. Fai la tua preghiera, Signore.